ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Sabato 30 gennaio 1943. Cara Kitty, sono furibonda e non posso darlo a vedere. Vorrei pestare i piedi, strillare, scuotere una volta per Benino la mamma, piangere e non so che cos'altro per le parole antipatiche, gli sguardi beffardi, le accuse che ogni giorno tornano a colpirmi come frecce e che fatico tanto a estrarre dal mio corpo. Vorrei gridare in faccia alla mamma, a Margot, Vandan, Dussel e anche a papà. Lasciatemi in pace! Lasciatemi finalmente dormire una notte senza bagnare il cuscino di lacrime, senza gli occhi arrossati e senza la testa che mi scoppi. Lasciate che me ne vada via da tutto, magari via dal mondo. Ma non posso far vedere loro la mia disperazione. Non posso lasciarli affacciare alle ferite che mi hanno causato. Non riuscirei a sopportare la loro compassione e le bonarie prese in giro. Griderei ancora. Tutti mi trovano esagerata quando dico qualcosa, ridicola quando taccio, maleducata quando rispondo, poco originale quando ho una buona idea, pigra quando sono stanca, egoista se mangio un boccone di troppo, stupida, vigliacca, calcolatrice, eccetera, eccetera. Tutto il giorno non sento dire altro che sono insopportabile e anche se rido e faccio finta di niente, in realtà mi importa e vorrei domandare a Dio di darmi un altro carattere in modo che tutti non siano contro di me. Ma non si può. Il carattere mi è stato dato una volta per tutte e so che non saprei essere cattiva. Lo sento. Faccio del mio meglio per accontentare tutti, più di quanto non possano lontanamente immaginare. Quando sono di sopra cerco di ridere per non dare a vedere che sono triste. Più di una volta, quando la mamma mi ha fatto una serie di rimproveri ingiusti, le ho risposto: «Tanto non me ne importa niente di quello che dici. Lasciami perdere, perché sono un caso disperato». Allora ovviamente mi sento dire anche che sono maleducata. Per 2 giorni lei mi tiene il muso e poi, d'un tratto, dimentica tutto e mi tratta come chiunque altro. Non riesco proprio a essere carina un giorno e il giorno dopo a buttare loro in faccia il mio odio. Preferisco l'aurea via di mezzo, che non è dorata. E tengo per me i miei pensieri e tento di disprezzarli quanto loro disprezzano me. Se solo ci riuscissi. Tua Anne. Sabato 27 febbraio 1943. Cara Kitty, Pim aspetta l'invasione da un giorno all'altro. Churchill ha avuto la polmonite, fatica a riprendersi. Gandhi, il fautore della libertà indiana, fa l'ennesimo sciopero della fame. La signora afferma di essere fatalista. Ma chi ha più paura di tutti quando sparano? Petronella Vandan, naturalmente. Jan ci ha portato la lettera dei vescovi ai fedeli. È scritta benissimo, molto incoraggiante. Non fermatevi, olandesi. Ognuno si batta con le proprie armi per la libertà del paese, fedeli e religiosi. Aiutate, date, non esitate. Questo gridano dal pulpito. Servirà? A quelli della nostra religione sicuramente no. Senti un po' cosa ci è capitato. Il proprietario di questa casa ha venduto lo stabile senza dire una parola a Kugler e Kleiman. Una mattina il nuovo proprietario è venuto a vedere la casa con un architetto. Fortuna che c'era il signor Kleiman, che ha fatto vedere tutto a quei signori eccetto il nostro alloggio segreto. Ha finto di essersi dimenticato a casa la chiave della porta di collegamento. Il nuovo proprietario non ha insistito. Speriamo che non torni proprio per vedere il nostro nascondiglio, altrimenti siamo nei guai. Papà ha svuotato uno schedario per Margot e me e ci ha messo dentro schede che su un lato sono ancora vuote. Sarà lo schedario dei libri. Tutte e due, infatti, ci segniamo quali libri abbiamo letto, da chi sono scritti e in che data. ho di nuovo imparato alcune parole nuove: bordello e cocotte. Per queste cose ho un quadernetto a parte. Nuova spartizione del burro e della margarina. Ognuno riceve la sua porzione sul piatto. La spartizione avviene in un modo molto ingiusto. I Vandan, che preparano sempre la colazione, si prendono una metà in più rispetto a noi. I miei vecchietti sono troppo per il quieto vivere per dire qualcosa. Peccato. Secondo me, a gente simile bisogna sempre dare pan per focaccia. Tua Anne. Giovedì 4 marzo 1943. Cara Kitty, la signora ha un nome nuovo. La chiamiamo Mrs. Beaverbrook. Naturalmente non capisci che cosa significa, ma te lo spiego io. Spesso alla radio inglese un certo Mr. Beaverbrook parla dei bombardamenti troppo blandi che vengono fatti in Germania. La signora Van Daan dà sempre contro tutti, perfino a Churchill e ai cronisti, ma col signor Beaverbrook si trova d'accordo. Che commovente! Per questo abbiamo deciso che può sposarselo. E dato che lei si sente lusingata, da quel momento la chiamiamo sempre Mrs. Beaverbrook. Avremo un nuovo magazziniere. Il vecchio deve andare in Germania. È un peccato, ma a noi va bene, perché essendo nuovo non conosce la casa. Abbiamo sempre paura dei magazzinieri. Gandhi ha ripreso a mangiare. Il mercato nero prospera. Potremmo essere grassi e pasciuti se avessimo i soldi per pagare quei prezzi folli. Il nostro ortolano compra le patate della Wehrmacht e a sacchi le porta nell'ufficio privato. Sa che siamo nascosti, per questo bada sempre di venire durante l'intervallo per il pranzo, quando i magazzinieri non ci sono. Non riusciamo neanche a respirare. Non facciamo che starnutire e tossire. Tanto pepe macinano qui. Quelli che vengono da sotto ci salutano con «Ecciù!». La signora dice che non vuole scendere perché se sente ancora odore di pepe si ammala. La ditta di papà non mi piace per niente. Ci sono solo gelatine e pepe piccante. Se uno vende alimentari deve avere almeno un po' di caramelle. Stamattina ho di nuovo dovuto sopportare una tempesta di parole. La grandinata di cose sgradevoli era così violenta che mi fischiavano le orecchie a forza di «Anne è cattiva» e di «Bravi Van Daan! Fulmini e saette! Tua Anne!». Mercoledì 10 marzo 1943. Cara Kitty, ieri sera abbiamo avuto un cortocircuito e poi hanno sparato senza sosta. Non sono ancora riuscita a liberarmi del tutto dalla paura degli spari e degli aerei e quasi ogni notte vado nel letto di papà per farmi consolare. Forse sarà un comportamento molto infantile, ma dovresti vedere. Non senti neanche quello che dici, tanto tuonano i cannoni. Mrs. Beaverbrook, la fatalista, si è messa subito a frignare e ha detto con una vocetta impaurita «Oh, che sgradevole! Oh, quanto sparano!» Che in verità vuol dire «Ho una paura tremenda». Al lume di candela non sembrava così grave come poi al buio. Tremavo come se avessi la febbre e ho implorato papà di riaccendere la candela. Ma è stato irremovibile. La candela è rimasta spenta. D'un tratto sentiamo il fuoco delle mitragliatrici, che sono ancora 10 volte peggio dei cannoni. Mamma salta fuori dal letto e con grande dispetto di Pim accende la candela. Ecco che cosa ha risposto alle proteste di lui. In fondo Anne non è un vecchio soldato. Questione chiusa. Venerdì 12 marzo 1943. Cara Kitty, consentimi di presentarti mamma Frank, la protettrice dei bambini, burro extra per i giovani, i problemi dei giovani moderni. Mamma si schiera sempre dalla parte della gioventù e dopo aver litigato riesce quasi sempre ad averla vinta. Terribili bombardamenti in Germania. Il signor Van Dan è di pessimo umore. Motivo: scarsità di sigarette. Nella discussione sul problema se consumare o meno i barattoli di conserva ha vinto il nostro partito. Nessun paio di scarpe mi va più bene, eccetto gli scarponi da sci, che in casa sono molto scomodi. I sandali di paglia, costati 6,50 fiorini, li ho potuti mettere solo per una settimana, poi si sono distrutti. Forse Miep riesce a trovare qualcosa sul mercato nero. Devo tagliare i capelli a papà. Pim dice che dopo la guerra non andrà da nessun altro barbiere, tanto bene svolgo il mio compito. Se solo non lo ferissi così spesso alle orecchie. Tua Anne. Giovedì 18 marzo 1943. Carissima Kitty, Turchia è entrata in guerra. Grande agitazione. Attendiamo con ansia notizie radiofoniche. Venerdì 19 marzo 1943. Cara Kitty, dopo un'ora soltanto la gioia è stata sostituita e completamente cancellata dalla delusione. La Turchia non è ancora in guerra. Il ministro ha solo parlato di un prossimo abbandono della neutralità. Sul Dama c'era un giornalaio che strillava: «La Turchia alleata con l'Inghilterra!» I giornali gli sono stati strappati di mano e così la bella notizia è arrivata fino a noi. Le banconote da 1.000 fiorini sono state messe fuori corso. È un duro colpo per tutti quelli della borsa nera e simili, ma ancora più per gli altri possessori di denaro clandestino e per la gente nascosta. Per cambiare una banconota da 1.000 fiorini bisogna dichiarare e dimostrare come la si è avuta. Per pagare le tasse si possono ancora usare, ma solo fino alla prossima settimana. Nel contempo sono scaduti anche i biglietti da 500 fiorini. Il Führer di tutti i germani ha parlato davanti ai soldati feriti. Era triste sentirlo. Le domande e le risposte erano più o meno di questo tono. Heinrich Scheppel, agli ordini. Ferito dove? Nei pressi di Stalingrado. Che genere di ferita? Entrambi i piedi congelati e frattura al gomito destro. Proprio così la radio ci ha trasmesso la grottesca sceneggiata. I feriti sembravano orgogliosi delle proprie ferite. Più ne hanno e meglio è. Uno si è talmente commosso per aver potuto stringere la mano al Führer, sempre che l'avesse ancora, da non riuscire più a spiccicare parola. Ho fatto cadere per terra la saponetta profumata di Dussel. Inavvertitamente l'ho calpestata e se n'è staccato un bel pezzo. Ho già chiesto a papà di rimborsargliela, visto che Dussel non riceve più di una saponetta al mese. Tua Anne. Sabato 27 marzo 1943. Cara Kitty, il corso di stenografia è finito. Ora cominciamo a esercitarci per aumentare la velocità. Come diventiamo bravi. Per raccontarti ancora qualcosa delle mie occupazioni ammazza giornata, le chiamo così perché non facciamo nient'altro che far passare i giorni il più in fretta possibile, in modo che la fine di questo periodo sia più vicina. Vado pazza per la mitologia e soprattutto per quasi tutti gli dei greci e romani. Qui pensano che siano passioni momentanee. Non hanno mai conosciuto ragazzine a cui piacciono gli dèi. Beh, allora sarò la prima. Il signor Van Dan è raffreddato, o meglio, ha un po' di solletico in gola. Fa un sacco di storie, gargarismi con la camomilla, pennellature del palato con tintura di mirra, balsamo su petto, naso, denti e lingua, e poi è ancora di cattivo umore. Reuter, un pezzo grosso crucco, ha fatto un discorso. Tutti gli ebrei dovranno aver abbandonato i paesi germanici entro il 1° luglio. Dal 1° di aprile al 1° di maggio verrà ripulita la provincia di Utrecht, come se fossero scarafaggi. Dal 1° maggio al 1° giugno l'Olanda del nord e del sud. Come una mandria di bestiame malconcio, malato e trascurato, quella povera gente viene condotta ai luridi macelli. Ma è meglio non parlarne, se no poi mi vengono gli incubi. Un'altra notiziola carina è che la sezione tedesca della Camera del Lavoro è stata incendiata dai sabotatori. Dopo un paio di giorni è stata la volta dello stato civile. Uomini travestiti da poliziotti tedeschi hanno legato i guardiani e sono riusciti a sottrarre documenti importanti. Tua Anne. Martedì 27 aprile 1943. Cara Kitty, qui tutti litigano con tutti. Mamma e io, Vandana e papà, mamma e la signora, tutti sono in collera. Atmosfera simpatica, no? Il contenuto del solito registro dei peccati di Anne è di nuovo di grande attualità. Sabato scorso sono tornati quei signori stranieri. Si sono fermati fino alle 6. Noi eravamo tutti di sopra e non osavamo muovere un dito. Quando in casa e nei dintorni non c'è nessun altro, nell'ufficio privato si sente ogni passo. Mi sembrava di avere la febbre a forza di stare seduta. Stare immobili così a lungo non è simpatico. Il signor Vosquil è all'ospedale, mentre il signor Kleiman è già rientrato in ufficio. L'emorragia si è fermata prima del solito. Ha raccontato che lo stato civile è stato conciato particolarmente male dai pompieri che, anziché spegnere il fuoco, hanno allagato tutto. Sono contenta. L'hotel Carlton è distrutto. Due aerei inglesi con a bordo un abbondante carico di bombe incendiarie si sono schiantati proprio sul circolo ufficiali. All'incrocio tra la Wieselstraat e la Singel si è incendiato tutto. Le incursioni aeree sulle città tedesche si fanno ogni giorno più pesanti. Non dormiamo più una notte tranquilli. Ho le borse sotto gli occhi per la mancanza di riposo. Mangiamo malissimo. Colazione a base di pane secco e surrogato di caffè. Pranzo. Da 2 settimane spinaci o insalata. Le patate coi germogli lunghi 20 centimetri hanno un pessimo sapore dolciastro. Per dimagrire venite all'alloggio segreto. Di fronte non fanno che lamentarsi. Noi sopportiamo senza tante storie. Tutti gli uomini che hanno combattuto nel 1940 o che erano mobilitati sono stati richiamati e dovranno lavorare per il Führer nei campi per i prigionieri di guerra. Deve essere una precauzione contro l'invasione. Tua Anne. Sabato 1 maggio 1943. Cara Kitty, Dussel ha compiuto gli anni. All'inizio sembrava che non gliene importasse niente, ma quando arrivò Miep con una grande borsa stracolma di pacchetti, diventò impaziente come un bambino. La sua loce gli ha mandato uova, burro, biscotti, gassosa, pane, cognac, pan pepato, fiori, arance, cioccolato, libri e carta da lettere. Quel vecchio pazzo ha lasciato tutto in bella mostra su un tavolino per 3 giorni. Non devi pensare che patisca la fame. Nel suo armadio abbiamo trovato pane, formaggio, marmellata e uova. È molto vergognoso che lui, dopo essere stato accolto così amorevolmente da tutti, si riempia la pancia a nostra insaputa e non ci dia niente. Noi abbiamo diviso tutto con lui. Ancora più grave ci sembra il fatto che sia così avaro anche nei confronti di Kleiman, Vosquil e Bepp. Non gli ha mai dato niente. Le arance, di cui Kleiman ha così bisogno per il suo mal di stomaco, Dussel le trova ancora più indicate per il proprio. Ieri notte ho dovuto mettere via tutte le mie cose per ben 4 volte, tanto sparavano. Oggi ho preparato una valigetta in cui ho sistemato le cose più importanti in caso di fuga. Mamma non ha torto a chiedermi: «Ma dove vuoi fuggire?» Tutto il paese viene punito perché ci sono tanti lavoratori in sciopero. Per questo è stato proclamato lo stato d'assedio e ognuno avrà un buono per il burro in meno. I bambini hanno disubbidito. Stasera ho lavato i capelli alla mamma. In questi tempi non è molto facile. Dobbiamo usare quel sapone verde appiccicoso perché lo shampoo è finito e poi Mans non può pettinarsi bene perché il pettine di famiglia non ha più di 10 denti. Tua Anne.